La metto, la tolgo e finisce lì. Poi metto nel cofano, fatto, finito. Apro il cofano, metto e via. Il filo non si rovina perché lo fai passare nel suo punto giusto, fatto. Ma niente di più. La mini turbo, come va, fa? C'ho una vecchia radio e già funziona. No, va bene la mini turbo, caspita, c'ha un segnale in meno o due segnali in meno della turbo 2001. C'ho anche l'altro, ma quella è troppo ingombrante. Ho usato sempre la magnetica, me l'ho sistemata perché la gomma si era rovinata, gliel'ho fatto nuovo, il basamento, boh, ho fatto delle bellissime saldature, il cavo 4 metri, c'ho 1,1 di stazionare, basta, in tutti i canali, va benissimo. Sì, le antenne della Lemme sono così, Antone, non danno stazionari, anche io quando ho piazzato la Turbo 2001 nella Station Vego, non si muoveva nemmeno l'altro. Vabbè, ma tu ci avevi, diciamo, l'antenna fissa proprio nella capota della macchina qui, essendo magnetica, giustamente un po' perde, ma siamo nella normalità, va benissimo. Più di così non sono riuscito a abbassarle, proprio ce l'ho provata in tutti i modi, no? questa è la sua taratura, ma va bene, va benissimo. Adesso ce l'ho un pochettino, intanto lo accendo, se c'è qualcuno, che sono in zona sassa, ne metto l'antenna e parto. Se c'è qualcuno chiacchiero, finché poi non trovo un parcheggio e poi giustamente devo spegnere, ma va benissimo la magnetica, mi sono trovato sempre bene. Fate nella zona di Plattavona, farti un giretto, così vedi il mare, cavolo, puoi modulare, fare di ex anche se c'è propagazione. Eccolo, già vedo, ma ormai mi già un'oretta così. A me piace molto il centro storico, detto, ma faccio una passeggiata qua, mi piace molto il centro storico, dunque è sempre da, quando sono così vado sempre lì in quella zona. Parcheggio l'entrata di Sassari al Conad, ma lì appunto non ce n'è adesso. Adesso ne ho trovato un'altra qua, una traversa di Via Turati, e poi a piedi vado sino al centro, Piazza Castello, quelle zone del centro storico, e poi ne rientro. Una passeggiatina, un caffè, vediamo cosa c'è, niente di più, dai, passare un'oretta già. Antone, fai bene, anche io devo riuscire di più. Infatti l'apparato della macchina me lo volevo mettere proprio per questo motivo, perché così almeno me ne esco da casa, invece se sto a casa, modulo da casa, me ne sto sempre dentro casa, non posso nulla. Avanti, giù. Ciao Gianni, hai ritirato cosa fare? Ciao Antone, hai ritirato quella cosa? Sì, grazie, giù, l'ho ritirato, mi sono andato adesso, sto tornando adesso. Ok, vabbè, dai, continuate pure, dai, io chiudo, ciao, ci sentiamo. Ciao Antonello, Santiago 7 qua da Mezzario Vanno. Ciao Gianni, ci sentiamo, ciao, chiudo. Ciao, grazie nuovamente Giulio. Avanti Antonello. Buonasera Giulio, ben sentito. Io sto cercando di parcheggiare. Quasi fatto, dai. Adesso ti potevi portare un portatile, quando passeggiavi parlavi col portatile. Quello sì, ma ce ne sono alcuni carini, avrei voluto prendere, sai quale, vabbè, quelli portatili piccoli, però che hanno l'auricolare, il microfono, piccoli, che quando parli si attiano automaticamente, dai, con la voce tua. Non sarebbe male, tanto sono piccolini, ti attacchi vicino qua al pantalone o alla cinta, e poi col cavettino fine il microfono. Perché no, già una bella idea anche quella, no? Portatili, l'ho avuto tantissimi anni fa nel 96, ma poi non mi ricordo, l'avevo venduto dalla Midland, non mi ricordo neanche che modello era, 40 canali. Io ce l'ho ancora il portatile della Intec, però l'ho preso questi ultimi che sono usciti, dai, non sono di quelli antichi. C'ho quello della Midland, della Intec, che va anche molto bene. Sono arrivato a Porto Torres, dalla strada vicino a casa, parlando così con le batterie. È buono, cavolo, va più che bene, solo maledizione, costano i tuoi portatili lì, no, poi specialmente in Midland ti danno uno schiaffo morale, come i prezzi sono impressionanti, no. Questo della Intec io l'ho pagato, mi pare, sulle 150, 160, una cosa del genere, però va molto bene, solo che l'unica cosa che c'è è che consuma batterie, non puoi stare sempre già a di batterie, invece quello della Midland c'ha il pacco batterie, lo metti in carica, capito? Quello sì, se no ti organizzi, ti prendi, non so, un caricabatterie, e le batterie ricaricabili, con un amperaggio in più che ti dura di più alla fine, e bene o male si scarica, lo puoi, ti puoi anche costruire tu un pacco batterie che ci stia lì all'interno, te lo puoi modificare e fargli un caricabatterie, la sera rientri lo rimetti a caricare, no, le soluzioni già ci sono, volendo te lo puoi anche costruire il caricabatterie. No, già ce l'ho Antone, le ho usate quelle batterie ricaricabili, quella 2900 del 2009, però non durano nulla, come ci parli, due minuti si scaricano, non rendono niente, ci vorrebbe un bel pacco, ci vorrebbe di quei pacchi batterie che si mettevano a tracolla come un tempo, riattaccavi il filo e casa andavi alla grande. Ah, eccolo, già è vero. Lo sai cos'è? Bisogna fare una ricerca e qualche modifica si riesce a fare, perché in questo periodo sto guardando diversi video su YouTube e c'è questo ragazzo Marco Valleggi, che è praticissimo di computer, però fa tante di quelle trasformazioni con delle apparecchiature vecchie che è impressionante, che è molto simpatico, e dunque riesce a trovare tutte le soluzioni per modificare, e ci sarà qualche modifica anche lì per avere delle buone batterie con una bella durata. Poi bisogna vedere, a volte comprare quelle batterie da due soldi ricaricabili, poi alla fin fine non servono a niente. Quelle buone maledizioni già le paghi, più le paghi c'ha più durata, più qualità. Io le ho prese la GBC, le ho prese, me le ho fatte pagare, mi pare 25 euro le batterie. Peccato, non so poco, non è speso poco. Ma infatti pensavo che fosse una cosa più duratura, invece durano da Natale a Santo Stefano anche quelle. Le metti in carica un paio di volte e poi non ti durano più. Ah ecco, e allora siamo sempre lì. Sale, le 5 meno 10. Adesso mi fumo una sigaretta e poi parto, dai, vediamo un po'. Tu oggi te ne fai a casa allora alla fine, dai. Non te la fai una passeggiata. Vai a rimorchiare, Antone, vai. E rimorchiare. Adesso sto pensando a passeggiare. Poi si vedrà. Ora com'era, per i meccanici vogliono soldi. Sì, ma se capita, dico, no, non è che tu vai apposta a rimorchiare, se capita, quando sei in giro. Quello già è vero. Ma ora com'era la verità, manco pensando ci stavo. La verità, proprio. Non ha giugana, si dice. Mamma mia. Un altro incubo già. Ma poi ci sarà la rinascita, Antonè, quando provi la prima, allora dopo cominci già a sentirti bene. E anche quello è vero. Vabbè, mamma mia. La verità, non dico paura, no, proprio paura, no, però un po' di... non lo so. Un po' in alto l'arto rimanendomi alla fine. Cazzo, un altro calcio in culo, non è tanto bello, no? Lo so. Cavolo, Antonè, è come quello che si brucia, no? Poi la mano sul fuoco non ce la metti più, e così siamo noi. Però bisogna andare avanti. Già lo so, già. Anche quello già è vero, però guarda la verità. Scappolone non è neanche male, la verità che ti dico. No, un giro di coglioni, un meno giramenti di palle hai, guarda. Quello è vero. Però ci sono i pro e i contro, bisogna dirlo. Quando ci sono i pro e i contro, perché vivere soli è bello da una parte e brutto dall'altra. Infatti io solo non sono mai, nel senso che sempre qualche storiella, qualche cosa sempre me la faccio, me la cerco. Quello sì, quello già è vero, però non so. Va bene, diciamo che neanche noi siamo pane da fare ostia, che sia ben chiaro. Però a volte dici, non lo so. No, non l'usarci. Guarda, tornando indietro, guarda, mai più. Antonio, sai cosa c'è? Che noi, prima di fare un certo passo, ci pensiamo due volte, invece la donna dice no e no, non c'è niente da fare. Ah, quello è vero. Poi dipende anche da ogni singola persona, sì, giustamente. Se recuperabilissima la cosa, assolutamente sì. Beh, ci vivi tanti anni assieme, alla fine fa parte di te. Quello sì, poi ci provi dall'altra parte, non è per far fregare di meno, e allora ma va a fanculo. Alla fine lasciamo perdere, va. Andiamo avanti, oggi è una bella giornata e. Cosa vuoi fare, altro? Niente di più. Pago il sole, Antonè, a tutti i bimbi. È così. Comunque dai, già sarebbe bene una passeggiatina al centro, dai, lì già c'è un po' di movimento, qualche negozietto così aperto con dei ragazzi lì che si fanno una bella passata di cannoni, lì tranquilli, sempre lì al centro è pieno, qualche caffettino al bar, una passeggiata, dai, vedi un po', così non è male, un gelato qualcosa, e poi piano piano si rientra. Adesso ho parcheggiato la macchina nella zona di passi in più, e dopo da passi in più all'entrata di Sassi, da lì sino al centro, dai, è una bella passeggiata. Poi la strada è sempre dritta, lì fai molto in fretta, 10 minuti e sono lì. Infatti, poi già fa bene camminare, dai, cioè, c'è una bella giornata oggi. Domani se fa bello vado e mi lavo la macchina, perché quella pioggia me l'ha tutta quanta riempita di fango. Quello sì, quella qua sporca. Comunque qua, qui arrivi benissimo, la zona in cui sono io è abbastanza chiusa qua, però arrivi bene. Su, come che sei a casa, parlando da casa, va benissimo. Invece lì all'entrata, nella prima rotatoria, lì sparisci. Poi dopo il semaforo ritorni di nuovo, sicuramente in zona buia. Sì, zona d'ombra magari. Vabbè Antone, dai, buona passeggiata allora quando la fai. Mi ha fatto piacere ascoltarti. E si sente bene. Che apparecchio c'hai in macchina? Cosa c'ho? Guarda su internet, Midland. Modello 77-861, di quel baracchino che all'epoca lo portavi a tracolla col pacco batteria e l'antenna, e poi me l'ho modificato, gli ho messo un microfono originale, un microfono amplificato, l'ho modificato e me l'ho messo in macchina, 40 canali in AM, volume squel, c'è pure. Ma KP2 te l'ha dato? Sì, ne aveva due, però questo andava sistemato, allora lì ho cercato un componente regolabile, non so cosa, come diavolo si chiama adesso, non me lo ricordo, comunque ho cambiato un piccolo componente dentro e me l'ho piazzato in macchina. Ma forse è quello che aveva venduto a me, che poi glielo riportato indietro perché c'aveva il pacco batterie tutto quanto ossidato. No, gli ho detto non lo voglio questo, io lo voglio solo per andarmene in giro, quando vado in giro col cane parlo. Però se c'ha il pacco batterie ossidato tutto quanto mangiucchiato era, gli ho detto se mi dai l'altro sì. Mi sono fatto ritornare i soldi perché non mi andava bene così. Non è male questo, no? No, questo mi ha dato così normale, senza tracolla, senza pacco batteria, è normale così, normalissimo. E il suo microfono, che poi alla fine c'ha microfono e colonnina incorporata, no? Lui non ce l'ha internamente il microfono. La colonnina. Allora gli ho fatto il collegamento, lo spinotto mono, e gli ho messo una cassa acustica esterna, non si vede nascosta, gli ho messo una cassa acustica di una radio che era un boom box, il woofer gli ho messo, no? Dunque c'ha la voce rimane molto più grossa, più cupa, bella, gli ho messo quello esternamente, tutto nascosto, non si vede nulla, e lo sto utilizzando in macchina. Hai fatto bene Antonio, così non c'è roba ingombrante che ti rompe le scatole in mezzo ai piedi. No, è piccolino, io ho la staffa, gli ho costruito a misura, con del lamierino e basta, rivestita, poi gli ho messo questo microfono Astral che funziona con una batteria da 1,5 volt, amplificato, ho preso alla fine, è pensato una radio con materiale di recupero e via. Sì, Antonio, esci proprio come se sei di persona, la stessa cosa, è molto fedele come radio. No, non è male. C'ha due potenza, minimo e massimo, adesso è a 3 watt e mezzo esce, e la minima a mezzo watt, una cosa del genere, adesso così al massimo, e basta. E la mini turbo con una magnetica, 4 metri di cavo, fatto delle bellissime saldature, perfetto, e tutta anche l'antenna l'ho revisionata, mi sono assillato un po', mi sono piazzato in macchina e via, già è utile, dai, già va bene. Gatto, è fatto bene Antonio. No, esce bene quello, ma quello il pacco batterie cos'era, ossidato? No, non ne ha avuto, no, me l'ha dato così, senza pacco batterie e senza custodia. La radio è il microfono suo originale, basta, tutto lì. Lui ne ha due di queste radio, questa è un'altra. Però quella è completa, con l'antenna, con che è estraibile, la borsetta tracolla, quella è completa, ne aveva due di questi. Ah, io già lo so che ne vado, ma sicuramente lui ci ha tenuto quello buono e l'altro l'ha smantellato perché c'aveva quel difetto, capito? L'ha smantellato e ha recuperato la radio, dato quella che serve in effetti è quella che c'è tu. No, quella con la custodia ce l'ha lui. Ah, andava bene lo stesso, me l'ha detto, già va bene, va la piazza in macchina. Poi la stavo pulendo, beh, ho trovato questo piccolo componente. Un regolatore a cacciata, ah ecco cos'è, un trimmel già, va, fanculo a me. Un trimmel. Gliel'ho cambiato, gliel'ho saldato, apposta, sta funzionando, finito. Capaga, perché stai destreggiando come tecnico adesso. Ci provo già, quelle minime cose che riesco a farle, sì. Adesso ho finito di farmi l'alimentatore, funziona benissimo, super silenzioso, perché prima era un po' più rumoroso, poi come ho cambiato tutti i componenti, zitto, manco si sente che è acceso. Me l'ho finito quello, adesso qualche altra cazzata me la inventerò, ma poi già ci vuole poco, se c'è le attrezzature, quelle semplici necessarie, già ci vuole poco a staccare un componente, aspirastagno, saldatore, ti assilli a togliere a rimetro, quello già ci vuole poco. Qualche piccola misura, piano piano, ambulanza, qualche piccola misura te la fai col test, ma le minime cose, poi tante altre cose mi trovo in difficoltà, non tocco niente, voglio portarle a chi è di dovere, ma se riesci a fare queste piccole cose, perché no? Al Gax gli avevo cambiato anche lì i trimmer, lo stesso, non usciva, una cazzata, gliel'ho cambiati, ho chiesto a Pompo, dice guarda sicuramente sono il trimmer, allora glieli ho staccati, meglio se li numerati, sono andati da Fusaro con gli stessi valori, tolti e rimessi, la radio funzionante, fatto. Antonio, sono al telefono, un secondo. Capa, vai tranquillo, dai, e ora mi incammino, ci sentiamo dopo. Hola, c'è qualcuno? Qualcuno? Gianni. Dimmi caro, chi è? Avanti. Oh, io. E cosa ti fa male? Tutto gonfio sono. Sono preoccupato. Cos'è, dal letto sei caduto? No, è più male dal letto. Non ho visto che ci hai fatto confidenza con letto. E intanto che faccio? Domattina devo andare su via Carlo Felice, vicino a Pomponio, che c'è il medico della ditta. Ah, devi andare a fare la visita. No, le do i documenti, contò, scusi la faccia. Cava, come esco con questo apparecchio Torino? Brecco. Avanti Riccardone, avanti, c'è il subito. Avanti Riccardino. Ok, grazie, ciao a tutti e saluto a Tonino e a Giuseppe. A Giuseppe cosa? A Gianni, scusa. Meno cominciare, a storpiare i nomi. Capito Giacomini? Ah, Giuseppe. Giacomini, arrivato te? No, negativo, Roma. Ancora Roma, Roma. Ma non ne può sapere in Sardegna. Non lo so, è partito sabato. Vabbè che se domenica non lavoro, sabato, lunedì, martedì e mercoledì, 4 giorni. Avrebbe, forse arriva, se ce la facciamo, lunedì. No, ci mette 3 giorni lavorativi. E quindi se sono lavorativi dovrebbe arrivare domani, perché cioè, no, sarebbe dovuto arrivare oggi, perché lunedì, martedì e mercoledì. E sto ancora aspettando. Ma non è che ti ha fregato questo qua? Beh no, perché ho guardato la spedizione ed è stato spedito. Mi può aver spedito sassi, però è stata spedita. Avanti break, di break. Ciao lupo grigio, sempre basso. Vai in terrazzo, che se no non ti sentiamo bene. Buonasera comunque. Buonasera lupo grigio, io non ti ascolto, la propagation ti copre. Ciao lupo grigio, ben sentito. Bene. Dunque, 3 giorni lavorativi, già, e se poi qualche giorno non lavora che faccio però? Ma lo senti a lupo grigio il tutorino? Certo che lo sento, sono anche salutato, se non lo sentivo l'avrei detto. E vabbè, cosa c'entra, perché l'ho nominato io, magari mi hai salutato, cosa l'entra io? Cappa, e tu Giacomino non lo senti? Un po' così, perché era basso basso, c'era anche il QRM, propagation da prima. Se sei interrato forse lo sento. Tutti e due, lo chiamiamo Giacomino, Riccardino, quello che viene bene, diciamo. Registrato, salite le break. Avanti break. Avanti break. Grincia, spera. K amico della Grincia, dai, qua è la città di Sassari, Sardegna, Italia, cambio, l'operatore è Gianni doppio Rum. Ma te dice Grincia, in provincia di Messina? Ma in galera Corona. Buono. K Corona, dai, ti ascolto abbastanza bene qua in Italia. Non so come mi stai ascoltando tu, dai, mi fai sapere come mi ascolti, avanti. Mi associo, Milton. Dice la Landriga. Beh, vabbè, continuate, dai, tanto non si può fare un cavolo qua. No, perché è un bidone. Ciao amico, 7351 contraccambiate, la città di Sassari ti super cordializza. Avanti Tony. K, ciao Corona, ben sentitos. Avanti Riccardinos. Ehi, va bene, saluta Corona, e gli faccio anche io 73 e ho detto che saluto a Claudio se non mi ha sentito. No, Riccardi, se parli di sopra gli altri non ti sento, ciao, buonasera a tutti, per me è un bidone, poi. Corona, scatta 59 e va qua, no. Dalla Grecia, provincia di Messina, non ci compreso se è una nuova nazione. Ciao, buonasera. E a tutti quelli che ti ascoltano, non so se ti ascoltano. Sì, se ho capito male, Gianfranco? No, non è Gianfranco, è Roberto Valghero. Ah, scusa, ti ho confuso. Ah, adesso che ci penso, vabbè. Scusa, Roberto, già ti ascolto, ciao. Ciao Roberto, Gianni doppio Luna a questa parte. K, come mi ascolti di Alghero? Alghero. K, che antenna c'hai? Non ho capito. Va bene, ripeti tu Claudio. Gianni, è un'antenna multibanda, ti ha detto. Non è un'antenna specifica. Alghero, mi copi? Propagazione forte. Oh Roberto, scusa se te lo chiedo, dai, visto che ci sono, e a me come mi ascolti, vabbè, sto usando come mi ascolti comunque. E a me mi ascolti Alghero. Sì, vabbè, io sono in campagna, sono piccolino, capito? Sto usando un pezzo di filo per l'antenna, un attaccapanni. Attenzione, ce ne sono a bordo. Tutti quanti in macchina siamo. Ma io, imbarcati anche tu. Tu vai a Bussello, chi sei, avanti. Ehi, Tonino, vai. Ciao Tony, mi hai sentito? Doppio Luna a questa parte. Ciao, bello sentito sotto la rotta, la bello potere come carriera. Tony, non mi ascolti a Itri, vediamo se sono positivo per Itri. Sì, a voi, a me stai crepando lui. Ehi, addirittura, raga. Bello forte. Ok, ti ringrazio. Dunque, ciao, ben entrato. Avanti, Riccardo. Mia Luca, ciao anche a te Luca, comunque saluto a Tonino e visto che ci sono, lì come sto arrivando? Già sei abbastanza carico anche tu, dai. Gaba, Luca ci sei? Sì, prendete che parlo. Romandigende, pane piccicco. Avanti. Buonasera, qui mi con Lupo Grigio dal terrazzo, come mi ricevete cambio? Tutto sparato, Lupo Grigio, ti riceviamo bene. Riccardino, mi copi l'interrogativo? Positivo, sì, ti copio, Lupo Grigio, adesso sta andando bene. Cosa c'è Roberto? Invece l'amico di Ittiri mi copia l'interrogativo. Mazza, hai coperto, vabbè, Alghero. Cosa hai detto Roberto? Scusate un attimo, non ho capito cosa ha detto. Positivo è K Roger, sì, ho anche l'FM, è il tornado questo. Riccardi, ci sei? Io sì che ci sono. Stava, cos'è Roberto, ancora in FM? In FM sta parlando con voi, ma non lo sentite? Tutto quello che sto girando in AM. Sta ancora parlando in FM. Sì, allora non la sentite. Davvero? Roberto, passa in AM, che stavi parlando in FM da solo. Cosa? Andiamo bene, andiamo. Andiamo bene, andiamo. Catta, bubù, andiamo bene, andiamo, bubù. Roberto. Fari due. Beh, trovata lei, Luca, quella capsula. No, negativo. Sì, vabbè, siamo in luci. Ne ho adattato un altro, dell'Intec, sicuramente del 34. 34 ore c'è il microfono. Chiamo su quella. Aspetta che lo provo, già, vediamo un po' se mi ascolti bene. Cazzo, gli ho detto, elimina quella barragione di capsula. Ne fai una sede di cotone ben messa. E poi le metti una capsula di quelle piccoline, funziona lo stesso a me. Te l'ho detto anch'io di fare così. Non va, Cla, non va, perché quella funziona alimentata. Come alimentata? E perché non ci vuoi eliminare l'alimentazione? No, non hai capito. Quelle capsule lì funzionano, quelle stai dicendo tu, quella alimentazione. Aspetta che provo il baracchino, un attimo. Quella alimentazione, quelle che abbiamo nell'MB più 4, più 5, quella alimentazione funziona. A te ti risulta Gianni, io non so. Sì, c'è polo positivo e polo negativo. Ed è alimentata dal circuito di preamplificazione della batteria. Questo non te lo so dire, sì, penso di sì comunque. Che circuito gli dà l'input per uscire, dai. Sì, penso che sia alimentata dalla batteria proprio. Udu, sì, sì. Ciao, come mi ascolti? Bene, bene. 1, 2, 3, prova radio, prova radio. È così, un po' chiusa come radio. Questo qua è quello della Inte, guarda adesso me l'ho spostato dalla bocca. E fa un passaggio lungo. 1, 2, 3, 30, 40, 50, attenzione, Gianni, doppio room, canale 27. Ma è normale il microfono? Sì, sì, normalissimo. E provalo col checco. Cosa vuol dire col checco? Con l'ecco. No, io adesso devo attaccare l'altro, una giugana già. Non va bene mi gira come radio. No, io la sento un po' chiusa, forse perché c'ho la colonnina, c'ha i filtri questa colonnina, magari ti dà più bassi. No, no, manca di acuti infatti, è tutto bassi, però non è male. Questo lo devo portare da Marina, là, capito? Da Marina. Poi non so niente, va impazzendo, sta allucinante, ce lo va. Oh, ma quindi mi confermi che la capsula, quelle piccoline che mettiamo ai microfoni di tavola, se la metti in un microfono normale non funzionano? No, assolutamente no. Cazzo, me lo dico sì, io che ne devo sapere la farina. C'è un condensatore dentro, qua. Cazzo, me lo dici così? Io ti ho messo un microfono normale del Polmar per far uscire più forte, invece non esce, ed è nuovo la capsula, ecco perché non va bene lì, vuole alimentarti la mazza che tiene e vai. Magari ne ha invertito anche i fili, può essere anche quello. No, ho fatto come hai detto tu già, li ho invertiti e non funzionano, è proprio così, se non è alimentata non vanno quelle capsule. Bisogna guardare anche l'impedenza della capsula, se 4 o 8 ore. No, no, già esiste l'impedenza tu lì. È proprio così come ha detto Gianni, non funziona, perché l'ho tolta da un microfono di tavola in demolizione e stava funzionando, capito? L'ho messo nel microfono normale senza batteria e non funziona. Bene, comunque Luca, se hai il microfono normale, se non mai sta uscendo bene. Io lo metto da 25, là. Perché l'altro si è rotto, così, butta in bianco si è rotto. Bah. Non mi segna niente, non ho dato col tester, ma non segna. Un attimo il telefono. Riccardo, ci sei? Ma tu l'hai mai provata così, Gianni? Senza una di quelle lì, senza batteria, per se a vanno? Sì che l'ho provata, però nel microfono amplificato li ho messi, quindi non so se nel normale vadano. Questo non te lo so dire. Io ho sempre modificato microfoni amplificati. E anche io ce li ho tutti modificati. Ho preso un altro MB più 5 e l'ho modificato uguale a quello che mi ha dato Gigi. Stesso lavoro. Capito? Perché mi è caduto e si è fatto due tappeti, allora l'ho demolito e ho tolto la capsula, il circuito, tutto, capito? Non stavo mettendo nel microfono normale, ma non funziona. Adesso ho buscato, vi giuro, mi ha buscato due cornette di quelle bianche e mi sono smontato la capsula. Ma io ne ho due o tre di quelli di telefono dell'Assirio. lasciamo controllare nella scatola che c'è in mansarda. Ma come sono quelle capsule, grandi o piccoline? Piccole. Ah, bene, e quelle vanno alimentate lo stesso, no? Ah, penso proprio di sì. Serve per i microfoni amplificati. Che palle, no, ne serve una che a me per il microfono normale. Il microfono normale del Polmar, suo originale, però la capsula, la modulazione non mi piace, voglio far uscire più forte, capito? O più, insomma, meglio di come esce. Però c'ho solo quelle capsule lì, io non ho di quelle rotonde, quella originale, quella rotonda grande, come quella che c'è a Lucca. Dalla a me che lo faccio uscire bene io con quell'apparato. No, già esce bene, già, col microfono di tavola già esce bene, ma anche col microfono normale esce bene, solo che non mi piace a me il microfono normale. Il microfono da tavola c'è una canonata, già l'ha sentita. Vabbè, Cavagiacchi, non sei uscito in moto oggi? No, non a giocare, ero cuccato, me l'ha citato chi gioca? Gianni. Mi stavo riposando, sono andato stamattina presto in giro da una parte all'altra. Ma sei ancora in servizio, sì? Beh, sono adesso a riposo, ma dovrei entrare l'altra settimana a lavorare. Ma quale malattia, sì, infortunio? No, allora io sono per il governo in quarantena. Ascolta, la parte del sindacato l'hai lasciata o ce l'hai ancora? No, io non ci sono più al sindacato, più di 25 anni. E la rottura di balle, in quel periodo che ci dici tu ce l'ho anche io, una rottura di scatto. Proprio impegni, riunioni, qui, là, a cazzo, ma non te ne avevo lo scatto per pieno. E quindi avevo mollato. Avevo rappresentante sindacale del distretto, sì, e ha mollato. Con tutti gli impegni che ci avevo, cazzo. Ogni giorno ce n'era uno, ogni giorno ce n'era uno, uscivo alle 2:10 dal lavoro, alle 3 ero a casa, a risico, vieni in ufficio, dobbiamo vedere alcune cose che c'era, ma vera biglietti di luce, alla fine ho mollato. Io tanti permessi avevo preso, membro definitivo, andare a Cagliari, andare a Roma, insomma, ristorante qua, là, congressi, davo le balle piene, boh, agito, non mi interessa per niente. No, non impegno grande tu, hai fatto bene. Hai fatto benissimo, va bene. Avanti già, riprendi. Mi sentite bene, sì, con questa radiolina, sì. Come sempre. E solo lui stava a Cebu. Che radio stai usando? 430, solo questa a Cebu, l'ho fatto vedere. Ah, no, vabbè, c'hai anche quelle basi, c'hai le altre, dai. Sì, il Polmar c'è collegato. Basta, le altre posso mettere l'armadio perché no, non c'è posto, visto c'è il computer. Ogni tanto alterno un po' questa e quella, il Polmar 7000. Sì, tanto, per la gente che c'è basta uno e avanza, a conti fatti. C'è un tonnello di usi in giro in macchina, adesso fra un po' rientrerà, forse lo sentiamo. Ehi, l'ho sentito poco fa, è sfuggito, mi stavo facendo la barba. Già l'ho sentito, già arriva bene, non c'è problema. Ehi, ma avete visto che già c'è un calo, prima eravamo tutti mattina e sera, adesso inizia a calare. Da tutto il periodo della quarantena, poi vedrai che i pari tutti dormono e quindi su. Avanti Riccardi, a te il cambio. Eia, va bene, ma scusate se lo, vabbè che c'è il questione, ma c'era anche Lupo Grigio che l'abbiamo lasciato così. Sì, c'è Lupo Grigio, avanti Lupo Grigio, ci sei. Si conferma, ci sono, ma speriamo che la CP, anche se di meno, comunque rimane, perché insomma è una cosa bella. Meglio pochi ma buoni, noi quando eravamo in pochi eravamo molto più buoni. Non verranno importanti, non verranno nulla. Grazie, dottore, ma anche l'altra notte stavo ascoltando e c'erano importanti a 9:20. Io qua mi stavo guardando la TV, come stasera c'è la partita. Il giorno della partita, adesso aveva una portante 9:20 sotto Roberto, poi la mettevano, parlava Riccardino, poi mi sembra anche quando parlavate voi, cazzo, non è rottura di balle. Ma chissà perché, che gusto hanno di rompere le scatole questi cazzo. Ma c'è sempre stato il gusto, capito? C'è sempre stato, non è che. Però ti ripeto, noi quando abbiamo iniziato eravamo 4 o 5. perché io ho iniziato con Gianni, lui col portatile era a casa, ho sentito lui chiamare e abbiamo iniziato. Poi è entrato Natalino, poi un po' si è affacciato Giulio, poi chi c'era? Luca, vabbè. Facevamo le bellissime queste ore, delle belle serate così, trascorrevamo, ridendo, scherzando, consigliamo. Stato poi entrato tutta la vita di ieri e sono iniziate le portanti, e pazienza. Cosa vuoi ti dica, amico? Io già sto entrando poco, quando vedo che si può fare due chiacchiere me le faccio, quando no me ne sto da parte, non me ne frega più niente, tanto è farsi sangue cattivo e basta. Vai Tony. Ah, io lo stesso, quando mi conosco cosa fare e c'è casino in frequenza, spengo, mi gioco con i cuccioli e mi diverto. Oppure esco a trovare Gianni, non più whisky, e ci facciamo due risate. Attento Gianni che è in quarantena, amico mio. Occhio Gianni, o ti scaldo le ciabette. In quarantena, io ci sono sempre attivo, so che in quarantena. Ma io sì, però attento. Chiaro, il caldo è sempre attivo. Degna attenzione. Attivo sì, e io sono passivo invece. Mi sembra che c'è qualcuno che chiama sottofondo. Attenzione, Puglia chiama Sardegna. Puglia. Attenzione Puglia, se ascolti l'isola sarda, cambio. Dice Gianni, non ne perde una. Paluppo, dai, ti ascolto abbastanza bene, dai. Anche se la radio è un po' bassina, riesco ad ascoltarti. 7351, l'operatore Gianni Doppio Room della città di Sassari, in compagnia di tanti altri amicacci. Avanti. È un po', diciamo che è un po' bassina, però aspetta un attimino, forse c'è il volume basso io, prova a parlare. Ok, vedi un po', 1, 2, 3, prova. Scappa, adesso sì, dai, adesso ci sì. Mi dai un controllo Radio Santiago anche a me, ti ringrazio. Certo Gianni, Santiago 78, radio di 5, nessun problema. Scappa, dai, ti ringrazio, anche tu adesso stai arrivando abbastanza bene. Ti passo l'amico Tonino Kawasaki, poi farà girare la ruota, dai, avanti Tonino. E non so se mi copia a me, ciao, ben sentito anche da parte mia, Tonino Kawasaki, avanti l'amicaccio. Buonasera Tonino, 73, anche il tuo segnale 78 radio 5, ti ascolto molto bene. Io sto modulando, come dicevo prima, da vicino Gallipoli, provincia di Lecce, e ho sentito che arriva la propagazione dall'isola sarda e vi ho chiesto i segnali. Arriva molto forte comunque qua, 995 mi sta arrivando Gallipoli, Benemeda, che fa piacere, dai, avanti Claudio. Ciao, non ho capito chi sei, buonasera, ben ascoltato, 9 più 10 con picchia 9 più 15 qua, dalla mia radio ricevente. Claudio Sparviero da Sassari, come ti arrivo io? Claudio, arrivi molto bene, segnale quasi di 9, radio 5, telefonica molto bella. Io è operatore Rocco, nominativo CB, Lupo. E ben ascoltato anche te Claudio. K Rocco, 5, 9 più 10 questo passaggio, è veramente molto molto forte. La modulazione è un po' bassina, ma comunque è molto molto comprensibile, complimenti veramente. Ti mando avanti il piccolo della frequenza, avanti Riccardino, vediamo un po' se ti ascolta Rocco, come ti ascolta. Ok, grazie Claudio per il mic, saluto al Lupo, ben ascoltato, anche qui sta arrivando molto forte, se potevi darmi un controllo anche a me e poi Riccardino. Certamente Riccardino, ben ascoltato, 73, il tuo segnale è di 6, segnale di 6, radio di 4, 5, comunque nessun problema, arrivi bene anche tu, Avanti ancora per te Riccardino, poi gira la ruota. Ok, io comunque sono il QTH di campagna, il tuo segnale è Santiago no, la radio è buona, è un 5. Grazie mille Riccardino, questo è cambiato tutto. Molto bene, rilancio allora Gianni da Sassari che ne fa entrare, vai Gianni. Dai, io ti ascolto bene adesso, dai, non so se tu mi stai ascoltando, come mi ascolti di segnale in questo passaggio, dai. Allora, questo passaggio è un segnale di 7, però calcola che è molto variabile, a volte arrivi 8, a volte 9, a volte 7, lo proprio 5, nessun, Radio 5, nessun problema. Vai ancora per te Gianni. Hey, capo, hai abbassato anche un po' tu di segnale adesso, vai. Comunque ti ascolto sempre, dai, è interessante ascoltarci e ci fa piacere modulare con altre regioni, sapere che ci sia ancora gente che ha la stessa nostra passione, dai. Rilascio tutto a Claudio, Claudio avanti. Capo, molto bene, Rocco, sì, sempre costante il segnale, 5-9 più 10 fisso, poco QSB qua da me, io sono molto alto, forse per quello la propagazione mi aiuta, ma il segnale è molto molto forte. Ok, Lupo Grigio, manco te lo rilanciamo perché sta usando un portatile. Lupo, lo senti a Rocco dalla Puglia? Ma parlando sta? Io non lo sento. Io neanche. Manco noi, figurati, manco noi qua in città lo sentiamo, quindi sicuramente è sceso dal tetto perché lui parla come i gatti, capito? Parla sopra i tetti. Avanti Tony. Il Lupo è arrivato addirittura a Santiago 9-10, poi è calato a Santiago 7-8, la propagazione, va bene. Comunque complimenti, arrivi veramente bene qua a Sassari, Lupo, riprende. Perfetto, sono contento. 9-10, perfetto, bello. Ma non so se mi ascolta a me, avanti Lupo, mi ascolti? Ascolto, avanti. K, buonasera, da questa parte Luca, coordinate Sassa, Nord Sardegna. Sì, io ti ascolto, segnale 9 qua, però sei un po' complesso di modulazione, forse magari perché stai pilotando un bel po' di watt, Mi sono accoppiato. Tu hai sentito Luca? I paridi si è incendiato un lineare. Si è detto watt, ho fatto altro. È sparita la propagazione. No, Luca gli ha detto che stava pompando troppi watt e si è incendiato. Scavagato. Comunque, vuole capsule quelle che si mettono nelle baby più 4, nelle baby più 5. 5 euro costa. Sì, ma cazzo, confermami, ma va alimentata quindi, non va bene nei microfoni normali. Allora, penso che anche nei telefoni di casa una piccola alimentazione la prende, minima ma la prende, sì, perché c'è un condensatore dentro. Allora la prende lui, sì, è certo che sì, hai ragione, i telefoni sono alimentati, la mazza che ne deve fare, io vendendo le vedo la carica, l'ho provata col tester e funziona, la biazzo non funziona, noi ci in radio, non ho fatto la prova a metterla. A metterla sul microfono preamplificato, ma è nuova, l'ho tolta da un microfono che si è fatto a pezzi, mi è caduto, metterla a posto l'armadio e si è fatto a pezzi, allora l'ho disarmato tutto, l'ho mandato in disarmo e ho tolto tutti i pezzi da dentro, c'è anche il circuitino, capito? Vabbè, allora se vuoi alimentata si abbia le luci. Avanti Tony, riprendi. Sì, anche quello del citofono è alimentato lo stesso, perché sappiamo benissimo che funziona tutto 12 volts, sia la pulsantiera che il citofono. Hanno un trasformatore, quindi alimentato anche quella senza alcun dubbio. Se no per correre tutto il filo, andare da una parte all'altra, quindi una capsula solo qualcosa non c'è, non ci arriverebbe mai. Quindi sono alimentate anche quelle. Cava gara! Ascolta, tu l'hai già provata quella che ti ha detto Giulio? Cosa? Non ti ho capito. Ho detto, l'hai già provata quella che ti ha detto Giulio, funziona? No, l'ho smontato solo e basta qua, perché me l'ha detto, la corrente intera l'ho smontata e l'ho conservata. Ah, ho capito. Allora, faccio controllo io se ne ho di quelle capsule, perché i telefoni ne ho ammazzata. Ne avevo uno in ogni stanza e telefono, quindi dovrebbero essere su, dopo controllo. Avanti Riccardo, riprendi. Dai, io un altro passaggio, poi vi lascio. Avanti Riccardo. Ehi, allora riprendete un attimo, mi devo sempre assentare come sempre quando vado in radio, che vado a fare pausa snack. Avanti Eugenio Gini. Buonasera. Vabbè, Pitti. Allora sì, a favore. Ciao Eugenio, vado a fare pausa snack, ci sentiamo dopo. Pausa snack, hai un fris? Ah no, che va a farmi, ciao Eugenio. Va bene, Pitbull, arrivi 5859, non c'è problema, no, non abbiamo problemi. Avanti, doppio rum, riprendi e io vi saluto, un abbraccio a tutti, buon proseguo di quel show, sentito, vi ho sentito e adesso me ne esco col cane. che c'è ancora un po' di sciopero, e poi mi guardo la partita. Ciao Tonino, Gianni, Riccardino, salutatemi, ciao Pitbull, ciao anche a Nicola, ok? Ciao a tutti, buon proseguo, ciao ciao. Ciao ciao Tonino, va, ciao. Ciao Claudio, buon pomeriggio, ci sentiamo. Oh Gianni. Ehi, yeah. Ma passo più tardi dopo cena. Cosa? Passo più tardi dopo cena. Anche adesso. Adesso, dai, ga. No, questo è il problema. Ci aveva passeggiato un gelato. Ah, vabbè. Ok. Dai. Bene, Mieda, hai capito, a Riccardino va a fare lo snack. Non mi c'è tempo, ti ho cambiato radio. Da passetto un altro come prima. L'altra era più grossa la voce, è vero? È diverso, non mi piaceva. Non ti piaceva? No. Però io non avevo ricordato il contento io. Non ti piaceva. Cosa? Ha detto non ti piaceva, è bella quella radio. Esce bene, poi lui non la tiene a manetta, c'ha un ecco, mi sto vestendo, c'ha un ecco leggero leggero, beh questo è un altro tipo di modulazione, ma anche quella radio era bella. Sì, ma abituato a portarlo così, l'ha capito. Così è un po' diverso. Vabbè, sono in cuffia comunque. No, perché tu sei, diciamo, uno degli ultimi entrati, ma io già ne sono una vita che l'ho sempre ascoltato con l'ecco. Anzi, adesso che sta usando il microfono da tavolo con un baracchino che non l'ecco, ma io già ne l'ho sempre sentito con col coso, col DM1000, sempre, è uscito sempre bene, anche col Galaxy, sempre. Beh, anch'io prima col Galaxy uscivo bene. Come adesso, né più né meno. No, ma non ho mai capito. Io sono abituato a sentire Gianni sempre con l'ecco, quindi non mi dà fastidio, per me non cambia la modulazione. È questa modulazione che è diversa da quella che io sono abituato a sentirlo, capito? Capito. Sì, ma io sentivo come sopra su di radio sto parlando. Che è leggermente diversa, però mi piace più quella della solita sua. Ragazzi, non siamo arrivati a casa, ci sentiamo, ciao! Ciao a tutti! Ciao Eugenio, ciao, buona carica quando la fai! Ciao Bitti, ciao! Ciao, ci sentiamo, ciao ciao! Ciao, ciao! Quanti anni è che usavi il DM1000, Gianni? Ce l'ho ancora il DM1000, l'ho anche modificato. Dopo ve lo faccio ascoltare. Il DM1000 modificato col Cora. No, gli sto facendo girare tutti qua, perché sennò lasciarli fermi è un casino. Li lascio, ogni giorno li faccio girare tutti. Oggi non ho toccato il gas, ma lo tocco la notte perché mi viene meglio attaccare le cuffie lì, mi puoi attaccare le cuffie davanti, quindi mi viene meglio a usarlo. La notte uso sempre il gas, ma durante il giorno li faccio girare tutti, perché sennò mi si ferma e si buchi. Normale. Vabbè dai, vestito mi sono, esco. Vai Tony, a frappè. Ok, buona passeggiata con le quattro zampe, stanno bene qua. Avanti già. Ehi, ciao Claudio, buona passeggiata. Mi sa che poi mi porto il cane a Platamona io. Devi poter fare un giro. Se devi uscire a prendere il fresco porta, non manco cammina un po' garito, me lo dico. Ah, già lo sto portando a fare i giri, ci facciamo delle grosse camminate, anche perché io mi devo muovere, sto facendo fisioterapia, quindi mi devo muovere, mi hanno detto di camminare e di camminare specialmente in modo corretto, perché molte volte uno pensa di camminare in modo corretto e invece cammina male. Devi camminare prima col tallone e poi mettere tutto il resto del piede. C'è gente, adesso da quando me l'ho detto, guardo la gente, c'è chi cammina di punta, chi cammina a capo piatto. Il modo di camminare ti può rovinare anche il femore, me l'ha detto il fisioterapista. Oh. Certo che sì, la camminata è molto importante. Certo che sì, vabbè. Ui, cura noi siamo buoni. Vai Doni, ciao a tutti, dai, buon proseguo, frate, ciao ciao. Ok, ciao di nuovo qua, ci sentiamo. Sì, già, mi sa che io inizio già a preparare qualcosa per mettere sotto i riti. Sì, preparati, io già ho mangiato uno yogurt intanto. Già va bene così, da uno yogurt e un arancio. No, mi faccio una bella bistecca.